terzo anello ad alta voce. Roberto Pedicini legge lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Il racconto del dottor Lanyon. Il 9 gennaio, 4 giorni fa, ricevetti con la posta del pomeriggio una lettera raccomandata inviatami dal mio collega e antico compagno di studi, Henry Jekyll. La cosa mi sorprese non poco, perché non era affatto nelle nostre abitudini di scriverci delle lettere. D'altra parte avevo visto Jekyll solo la sera prima. Ero anzi stato a cena da lui e non vedevo che cosa potesse giustificare fra noi la formalità di una raccomandata. Ma ciò che mi sorprese ancora di più fu poi il contenuto della lettera. Ecco infatti che cosa diceva. Caro Lanyon, tu sei uno dei miei più vecchi amici e non ricordo che il nostro affetto sia mai venuto meno, almeno da parte mia, anche se abbiamo avuto divergenze su questioni scientifiche. Non c'è mai stato un giorno in cui, se tu mi avessi detto «Jekyll, la mia vita e il mio onore, la mia stessa ragione dipendono da te», io non avrei dato la mia mano destra per aiutarti. Oggi, Lanyon, la mia vita, il mio onore e la mia ragione sono nelle tue mani. Se questa sera non mi aiuti tu, sono perduto. Dopo questo preambolo sospetterai che io stia per chiederti qualcosa di compromettente. Lascio giudicare a te. Ciò che innanzitutto ti chiedo è di rimandare ogni altro impegno per questa sera, fossi anche chiamato al capezzale di un re. Ti chiedo poi di chiamare una vettura da piazza, a meno che la tua non sia già alla porta, e di recarti senza indugio a casa mia. Poole, il mio maggiordomo, ha già avuto istruzioni. Lo troverai ad aspettarti in compagnia di un fabbro che si incaricherà di forzare la serratura del mio studio sopra il laboratorio. Tu dovrai allora entrare da solo, aprire il primo armadio a vetri a sinistra, lettera E, e tirar fuori, con tutto il suo contenuto, così come sta, il quarto cassetto dall'alto, ovvero, che è lo stesso, il terzo dal basso. Nella mia estrema agitazione ho il terrore di darti indicazioni sbagliate, ma anche se mi sbagliassi, riconoscerai senz'altro il cassetto dal contenuto. Delle polveri, una fiala, un quaderno. Ti prego dunque di prendere questo cassetto e, sempre esattamente come sta, di portarlo a casa tua in Cavendish Square. Questa è la prima parte dell'incarico che ti affido. Ecco ora la seconda. Se sarai andato da me appena ricevuta questa lettera, dovresti essere di ritorno a casa tua molto prima di mezzanotte. Ma ti lascio questo margine, sia nel timore di qualche imprevedibile contrattempo, sia di quanto, per ciò che resterà da fare, sarà preferibile che la servitù sia già andata a letto. A mezzanotte, dunque, ti chiedo di far entrare tu stesso e ricevere nel tuo studio una persona che si presenterà a mio nome e alla quale consegnerai il cassetto di qui sopra. Con ciò la tua parte sarà finita e avrai tutta la mia gratitudine. Ma 5 minuti più tardi, se avrai insistito per una spiegazione, capirai anche la vitale importanza di ciascuna delle mie istruzioni. Trascurandone anche una sola, per incredibile che possa sembrare, avresti avuto sulla coscienza la mia morte o la distruzione della mia ragione. Pur sapendo che farai scrupolosamente quanto ti chiedo, il cuore mi manca e la mano mi trema al solo pensiero che possa non essere così. Pensa a me, Lanyon, che in quest'ora terribile attendo in uno strano luogo, in preda a una disperazione che non si potrebbe immaginare più nera, e tuttavia sicuro che se farai precisamente come ti ho detto, tutto si risolverà come alla fine di un incubo. Aiutami, mio caro Lanyon, e salva il tuo Henry Jekyll. Postscriptum. Stavo già per spedire quando mi ha assalito un nuovo dubbio. Può darsi che la posta mi tradisca e che la lettera non ti arrivi prima di domattina. In questo caso, caro Lanyon, occupati del cassetto quando ti sarà più comodo nel corso della giornata e di nuovo aspetta il mio inviato a mezzanotte. Ma potrebbe essere già troppo tardi allora. Nel qual caso non verrà nessuno e saprai che nessuno vedrà più Henry Jekyll. Non dubitai, quando ebbi finito di leggere, che il mio collega fosse impazzito, ma intanto mi sentivo obbligato a fare ciò che mi chiedeva. Meno capivo quell'ingarbugliato messaggio, meno ero in grado di giudicarne l'importanza. E del resto un appello in quei termini non poteva essere ignorato senza grave responsabilità. Mi affrettai dunque a chiamare una vettura e andai subito a casa di Jekyll. Il maggiordomo mi stava aspettando. Aveva ricevuto istruzioni anche lui per raccomandata quello stesso pomeriggio e aveva già mandato a chiamare un fabbro e un falegname. I due artigiani arrivarono mentre stavamo ancora discorrendo e tutti insieme passammo nella ex sala anatomica del dottor Denman, da cui, come certo saprai, si accede per una scala alla stanza da lavoro di Jekyll. La porta era robustissima, con un'eccellente serratura, e il falegname avvertì che se si fosse dovuto sfondarla sarebbero stati guai. Il fabbro si disperò con quella serratura per quasi 2 ore, ma era uno che sapeva il fatto suo, e alla fine riuscì ad aprirla. Quanto all'armadio segnato E, non era chiuso a chiave. Presi dunque il cassetto, lo avvolsi in carta da imballaggio dopo averlo riempito di paglia, e me ne tornai con quello in Cavendish Square. Qui procedetti a esaminare meglio il contenuto. Le polveri erano in cartine confezionate con cura, ma che Jekyll doveva aver preparato da sé, perché mancavano di quella precisione che rivela la mano del farmacista. Aprendone una, trovai quello che mi sembrò un semplice sale cristallizzato di colore bianco. La fiala era piena a metà di una tintura rosso sangue, di odore molto pungente, che doveva contenere del fosforo e qualche etere volatile, tra altre sostanze che non potei identificare. Il quaderno era un qualsiasi quaderno d'appunti e conteneva principalmente delle date. Queste, a quanto notai, coprivano un periodo di parecchi anni, ma si interrompevano bruscamente circa un anno prima. Alcune erano accompagnate da una breve annotazione, o più spesso da una sola parola, doppio, che ricorreva 6 volte su un totale di qualche centinaio, mentre accanto a una delle prime date si leggeva «fallimento totale», con diversi punti esclamativi. Tutto questo eccitava la mia curiosità, ma non mi forniva il minimo chiarimento. Una fiala, dei sali e un quaderno da appunti su una serie di esperimenti che Jekyll, a giudicare dalle altre sue ricerche, doveva aver condotto senza alcun fine pratico. Com'era possibile che l'onore del mio stravagante collega, la sua ragione, la sua stessa vita, dipendessero dalla presenza di quegli oggetti in casa mia? Se il suo inviato poteva venire a prenderli in un posto, perché non in un altro? E anche se per un motivo qualsiasi non poteva, perché dovevo riceverlo in segreto? Più riflettevo e più mi convincevo di avere a che fare con uno squilibrato. Per cui, pur mandando a letto la servitù, caricai un vecchio revolver, così da trovarmi al bisogno in condizioni di difesa. I 12 colpi della mezzanotte avevano appena rintoccato sull'ombra, quando sentii bussare molto leggermente alla porta d'ingresso. Andai ad aprire io stesso e trovai un uomo basso, di corporatura minuta, mezzo rannicchiato contro uno dei pilastri. «Venite da parte del dottor Jekyll?» chiesi. Annuì con un cenno impacciato e mentre gli dicevo di accomodarsi, si guardò furtivamente alle spalle. Poco lontano, nell'oscurità della piazza, c'era una guardia che veniva avanti con la sua lanterna e mi parve che il mio visitatore a quella vista trasalisse, affrettandosi a entrare. Tutto questo mi fece una pessima impressione, devo dire, per cui gli feci strada, tenendo una mano sulla rivoltella. Thank you. Nello studio, vivamente illuminato, potei finalmente guardarlo bene. Non l'avevo mai visto prima, questo almeno era certo. Era piccolo, come ho detto, e fui particolarmente colpito dalla rara associazione in lui di una grande vivacità muscolare con un'evidente deficienza di costituzione. Mi colpirono anche la sua espressione malevola e forse più di tutto lo straordinario senso di raccapriccio che mi dava la sua sola presenza. Questa particolare sensazione, somigliante in qualche modo a un principio di rigidità isterica e accompagnata da un notevole rallentamento del polso, l'attribuì allora a una specie di mia idiosincrasia, di mia avversione personale, e mi meravigliai solo dell'acutezza dei sintomi. Ma penso adesso che la causa vada ricercata molto più a fondo nella natura dell'uomo e in qualcosa di più nobile che non nel semplice principio dell'odio. Quella persona, che fin dal principio mi aveva dunque riempito, se così posso dire, di una curiosità piena di disgusto, era vestita in un modo che avrebbe senz'altro fatto ridere se si fosse trattato di una persona ordinaria. I suoi abiti, infatti, benché di ottima stoffa e sobria fattura, erano smisuratamente troppo grandi per lui. I larghissimi calzoni erano ampiamente rimboccati, senza di che avrebbero strascicato per terra, e la vita della giacca gli arrivava sotto i fianchi, mentre il bavero gli pendeva tutto intorno alle spalle. Ma, curiosamente, questo abbigliamento grottesco mi fece tutt'altro che ridere. L'essenziale anormalità e deformità dell'individuo che avevo davanti e che suscitava la straordinaria repugnanza che ho detto, sembrava anzi accordarsi perfettamente con quest'altra stranezza e ne risultava rafforzata. Per cui al mio interesse per il personaggio in sé si aggiunse una viva curiosità quanto alla sua origine, alla sua vita, alle sue fortune e alla sua condizione sociale. Queste osservazioni, così lunghe da riferire, le feci in pochi secondi. Il mio visitatore bruciava infatti di cupa ansietà. «L'avete! L'avete qui!» gridò, e nella sua impazienza mi mise addirittura una mano su un braccio. Lo respinsi con un sussulto. Il contatto di quella mano mi aveva fatto rabbrividire. «Via, signore», dissi. «Dimenticate che non ho ancora avuto il piacere di fare la vostra conoscenza. Sedetevi, prego». Detti l'esempio sedendomi io stesso e cercando di assumere le mie maniere abituali, come con un qualsiasi paziente, nella misura in cui me lo consentivano l'ora insolita, la natura delle mie preoccupazioni e la repugnanza che mi ispirava il visitatore. «Avete ragione e vi chiedo scusa, dottor Lennon», disse abbastanza civilmente. «L'impazienza mi ha preso la mano, ma sono qui, su incarico del vostro collega, dottor Jekyll, per un affare urgentissimo. A quanto ho capito...» Si interruppe portandosi una mano alla gola e mi resi conto che era alle soglie di un attacco isterico, benché lottasse per mantenere un contegno. «A quanto ho capito», riprese con difficoltà, «si tratta di un cassetto che...» Ma qui ebbi pietà della sua angoscia e forse un po' anche della mia crescente curiosità. «Eccolo lì, signore», dissi indicando il cassetto che era in terra dietro un tavolo, ancora nel suo imballaggio. Lo raggiunse d'un balzo e poi si fermò con una mano sul cuore. Potevo udire lo scricchiolio dei suoi denti nella stretta convulsa delle mascelle, e la faccia era così spettrale da far temere per la sua vita o per la sua ragione. «Cercate di calmarvi», dissi. Mi rivolse un sorriso orribile e con l'impeto della disperazione disfece l'imballaggio. Quando poi vide che tutto era in ordine, il suo urlo di sollievo fu così forte da lasciarmi impietrito, ma in un momento si calmò e ritrovò il controllo della voce. «Avete un bicchiere graduato?» chiese. Mi alzai con un certo sforzo e andai a prendergli ciò che chiedeva. Mi ringraziò con un cenno, sorridendo, e misurò una certa dose della tintura rossa, cui aggiunse una delle cartine di polvere. Il miscuglio, dapprima rossastro, man mano che i cristalli si scioglievano, diventò di un colore più vivo, entrando in udibile effervescenza ed emettendo vapori. Poi d'un tratto, e nello stesso momento, l'ebollizione cessò e il colore si fece di un profondo rosso porpora, che a sua volta lentamente svanì, lasciando il posto a un verde acquoso. Thank you. Il mio visitatore, che aveva seguito con occhio attento queste metamorfosi, sorrise di nuovo e posò il bicchiere sul tavolo, scrutandomi con aria interrogativa. «E ora», disse, «veniamo al resto. Volete essere prudente e seguire il mio consiglio? Lasciate allora che io prenda questo bicchiere e me ne vada senz'altro da casa vostra. O la vostra curiosità è così forte da dover essere appagata ad ogni costo? Pensateci prima di rispondere, perché sarà fatto come deciderete. Nel primo caso resterete come siete ora, non più ricco né più esperto di prima, a meno che il servizio reso a un uomo in mortale pericolo possa contare come una specie di ricchezza dell'anima. Nell'altro caso, nuovi orizzonti del sapere e nuove prospettive di fama, di potenza, si apriranno di colpo qui, davanti a voi, perché assisterete ad un prodigio che scuoterebbe l'incredulità dello stesso Satana!» «Signore», risposi ostentando una freddezza che ero lontano dal possedere, «dato che parlate per enigmi, non vi stupirà che vi abbia ascoltato senza convinzione. Ma sono andato troppo avanti su questa strada di incarichi inesplicabili per fermarmi prima di vedere dove porta.» «Come volete», disse il mio visitatore. E incomprensibilmente aggiunse: «Ma ricorda il tuo giuramento, Lennon. Ciò che stai per vedere è sotto il sigillo della nostra professione. E ora tu, che per tanto tempo sei rimasto fermo alle vedute più ristrette materiali, tu, che hai negato le virtù della medicina trascendentale, tu, che hai deriso chi ti era superiore, guarda!» Portò il bicchiere alle labbra e bevve d'un fiato. Poi gridò, vacillò, s'aggrappò al tavolo per non cadere. E così aggrappato restò a guardarmi ansimante, con la bocca aperta e gli occhi iniettati di sangue. Ma in qualche modo era già cambiato, mi parve, e d'un tratto sembrò gonfiarsi. La sua faccia diventò nera, i suoi lineamenti si alterarono come se fondessero. Un attimo dopo era balzato in piedi e aveva indietreggiato contro il muro, con un braccio ripiegato come per difendermi da quella vista incredibile. «Dio!» urlai, e ancora sconvolto dal terrore. «Dio! Dio!» Perché lì, davanti a me, pallido e barcollante, scosso da un violento tremito, annaspando come uno che esca dal sepolcro, stava Henry Jekyll. Ciò che mi disse nell'ora che seguì, non posso risolvermi a scriverlo. Ho visto ciò che ho visto, ho udito ciò che ho udito, e ne ho l'animo distrutto. Eppure ora quella vista si era allontanata. Mi domando se ci credo davvero, e non so che cosa rispondermi. La mia vita è scossa dalle radici. Il sonno m'ha abbandonato, e il più mortale dei terrori mi opprime in ogni ora del giorno e della notte. Sento di avere i giorni contati, eppure sento che morirò incredulo. Quanto alle turpitudini morali che quell'uomo mi rivelò, sia pure tra lacrime di rimorso, non saprei ricordarmene senza raccapricciarne di nuovo. Ti dirò una cosa sola, Utterson, e se riuscirai a crederci, dovrebbe più che bastare. Quell'essere che scivolò in casa mia quella notte, quello, per ammissione dello stesso Jekyll, era l'essere chiamato Hyde e ricercato in ogni angolo del paese per l'assassinio di Carew. Esti Lennon. Roberto Pedicini ha letto Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Regia di Anna Marzetti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it